ad alta voce. Ferdinando Bruni legge L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini. Quando nessuno se lo aspettava più, Eneo ricomparve. Si inoltrò sul pontone guardando distratto davanti a sé, quasi non vedesse o non conoscesse alcuno, e andò diritto, con quel suo passo che lo faceva dondolare un poco, verso lo spogliatoio. Ma non ebbe il tempo di sfilarsi la giacca, che fu assalito da un gruppo e poi da tutta la canottiera. Ario era lì, tra i primi. Nell'andito si tumultuava, tutti si sollevavano sulle punte dei piedi e la ressa cresceva. Tre canottieri che si erano fatti innanzi per affrontarlo erano scomparsi nella sua cabina. «Come mai non gridano ancora? Che stiano per bastonarsi?» si domandava Ario. A un tratto si alzarono, una dopo l'altra, le loro voci e nell'andito corse un fremito. Tutti si sospingevano e chi stava davanti venne sbattuto contro la porta. «I soldi!» gridava uno. «Sì, i soldi! Fuori i soldi!» si unirono gli altri due. Nell'andito corse un altro fremito. Il gruppo ondeggiò da una parte, poi dall'altra. Tutti ansavano in uno strano, teso silenzio. Infine una voce si levò, acuta, pazza, e parve di donna. «Fuori i soldi!» E tutti proruppero. «Fuori i soldi! Fuori i soldi!» Eneo comparve sull'uscio, tranquillo davanti ai tre canottieri scalmanati. Avevano gli occhi esaltati e torbidi e il collo gonfio. E lento, con un gesto largo, estrasse il portafogli. «Certo!» esclamò. E chi era lì dinanzi scorse le sue dita grosse, farlato di trascegliere una carta da mille. «Renderò conto, se è necessario, del denaro per il viaggio e del resto. Ma non a voi, al presidente, se me lo chiede». Bastò quell'atto per disorientarli. «Hai visto? Hai sentito?» domandò più tardi Berto ad Ario. «È sempre lui. Ora sapremo perché non ha partecipato alla regata». Invece fu proprio questo che nessuno riuscì a sapere. Eneo non solo non rispondeva, ma sembrava addirittura che non si desse neanche la pena di ascoltarli. Ario lo osservava e non riusciva a capire per quale istinto egli sapesse cavarsela così. Era come se in lui, di solito così torpido e animalesco, si fosse svegliata un'intelligenza particolare che si concentrava tutta nel difendersi. Sapeva farlo, le rare volte che rispondeva, con prontezza ed astuzia. Neanche i più furbi riuscivano a strappargli nulla. «Avete fiducia in me?» egli chiese, gonfiando il petto e piantandosi a gambe aperte un giorno che tornavano alla carica. «No!» gridarono da ogni parte. «Sta bene», rispose. «Allora non avete neanche il diritto di farmi delle domande». E voltò loro le spalle. Si finì davvero per non domandargli più nulla. Con la sua ricomparsa, sulla Virtus tornava rapidamente l'aria fervida e lieta di sempre. Sembrava, in un certo modo, che a calmare tutti bastasse la sua presenza. Adesso che egli girava di nuovo per la canottiera, alto e membruto nelle mutandine piccolissime, tutti apparivano più quieti ed ilari. «È strano», pensava Ario. «È possibile che gli riesca a cavarsela dal dare una spiegazione? È stato sì o no a Napoli? E se c'è stato, perché non ha corso? Con la direzione almeno dovrebbe giustificarsi». Ne parlò accalorandosi al piccolo timoniere. «Hai ragione», rispose quello. «Anch'io l'ho detto al segretario e lui mi ha risposto che la tattica della direzione è di prenderlo con le buone. O prima o poi, pensano, egli si spiegherà. L'importante è di non disgustarlo, perché allora pianta la Virtus e passa a un'altra canottiera». A rivederlo nella sua magnifica complessione, anche Ario adesso riportava, nonostante i ragionamenti che pur faceva per non lasciarsi suggestionare, l'impressione di tutti. Eneo poteva salire in pochi balzi ai più alti campionati e non riusciva a capacitarsi d'essere stato tanto sicuro della sua nullità, follemente sicuro, come invasato o ispirato da una visione del vero che agli altri sfuggiva, il giorno delle regate di Napoli, quando aveva fatto quella sfuriata al gruppo di canottieri che l'avevano provocato. E, stranamente, egli non si sentiva scontento di essersi sbagliato in quel modo. Che Eneo potesse ancora vincere, smentendo tutti e soprattutto lui stesso, gli faceva, in fondo e suo malgrado, un piacere che non riusciva a soffocare. E ne provava poi, accorgendosene, quasi un dispetto. In pochi giorni, Eneo aveva ristabilito alla Virtus la propria posizione. Era straordinario come aveva riguadagnato, se non accresciuto, il suo prestigio, proprio col rifiutarsi tranquillo di dare spiegazioni. Precipitato giorni prima, si risollevò di colpo e si rimise, nonostante tutto, sul suo piedistallo di un tempo, con la sola forza di quel silenzio che avvolse in un'aria di mistero, piena di sottintesi e di possibilità per l'avvenire, quella che restava sportivamente una mancanza senza scuse. Berto sembrava rinato. Correva su e giù per la canottiera con gli occhi vividi e lo si udiva fischiettare. Aveva rilucidato lo skiff dalla carena alle scalmiere e ora si prodigava nel servire Eneo. «Si riprende», disse ad Ario un giorno che Eneo usciva dal porto con la sua bella vogata lunga. «Non riesco a capire cosa abbia avuto il mese scorso, porca malora, ma ora si riprende». Tutti ormai parevano riconciliati con Eneo, tranne il canottiere magro. Era stato lui a raccontare, e Ario non seppe mai da chi lo avesse appreso, che Eneo al suo ritorno era stato affrontato e bastonato da alcuni macchinisti suoi compagni. «Ecco perché quei giorni non si faceva vedere», commentò. «Era gonfio di botte». In canottiera non tutti ci avevano creduto. Tuttavia se ne parlò a lungo. «Bisogna cronometrarlo», andava dicendo adesso accanito, e pronunciava quella parola, cronometrarlo, con gusto e acredine particolari, quasi si trattasse di fargli chissà che. «Si è mai visto uno che aspiri al campionato a allenarsi senza nessun controllo? E si è mai vista tutta una società che gli crede sulla parola quando dice di aver fatto questo o quel tempo? In tal modo si va incontro alle sorprese che sappiamo». E si guardava intorno, in cerca di consensi, con gli occhi neri, acuti, lucidi come di febbre. In quei momenti la spalla destra gli si alzava più del solito e pareva, così sbilenco, un uccello sopra un ramo. In giro si assentiva, ma fiaccamente, come per non dare esca alla discussione. E poi nessuno ne parlava più. «Eneo», diceva invece Berto ad Ario, «è più furbo di quanto credono questi stupidi. Ha fatto apposta, capisci, a non correre a Napoli». «Apposta? Ma ci ha rimesso il campionato, vuoi dire? Ebbene, io credo che abbia voluto lasciarselo sfuggire», e spiegava. «Eneo, capisci, lui non me l'ha detto, ma io so che è così. Vuole, con questa tattica, addormentare gli avversari. Lo credono finito. E lui, invece, sul più bello, balzerà fuori e vincerà tutti, conquistandosi il titolo nazionale, proprio nel momento in cui gli darà il diritto di partecipare alle Olimpiadi. Ma non poteva conquistare il titolo già adesso? Ma se ti dico che lui è il più furbo di tutti!» A Napoli, il vecchio campione aveva raggiunto un tempo assai inferiore a quello che Eneo era solito fare nei suoi allenamenti. Eneo quindi sapeva che, in realtà, il campione d'Italia era a quell'ora lui e non l'altro. Ma voleva che ciò restasse segreto. Se si veniva a saperlo, qualcuno poteva allenarsi meglio e superarlo alle regate del prossimo anno, togliendogli la possibilità di rappresentare l'Italia alle Olimpiadi. Così, invece, l'altro campione sonnecchierà, credendosi imbattibile, ed Eneo balzerà fuori e lo supererà al momento buono, poco prima delle Olimpiadi, quando quello non avrà più il tempo di riprendersi e tentare la rivincita. Questa spiegazione, sebbene avesse qualcosa di fantastico, come ogni racconto di Berto, colpì Ario. Egli la ripeté, quasi fosse sua o l'avesse avuta direttamente da Eneo al canottiere magro, un giorno che questi aveva ripreso a parlare di cronometraggio. «Ma che, scosse il capo il canottiere. Prima di tutto Eneo non è tipo di fare un piano simile. Ha buon naso ed è sfrontato soprattutto, ma intelligente non è. E poi, chi può assicurarlo che prima delle Olimpiadi si disputerà ancora una volta il titolo nazionale? Correva voce che le Olimpiadi avrebbero inizio tra 11 mesi, entro un anno, dunque. Se in questo frattempo la federazione non indiceva nuove regate, ed era probabile che non le indicesse, perché il campione attuale doveva conservare il titolo per un anno almeno, Eneo era giocato. Ario non seppe cosa rispondere. Quella considerazione rovesciava tutte le speranze di Berto. Si accorse, tuttavia, che il canottiere magro era rimasto interdetto. E gli parve anche che gli avesse risposto con tanta prontezza più per convincere se stesso che non per obiettargli. E ora, mentre egli taceva con quella spalla scarna più rialzata che mai, fuori dalla maglia troppo larga, gli sembrava di nuovo perplesso e sopra pensiero. «No!» tornò a esclamare. «Non può essere. Non credo sia così furbo. Farebbe bene, piuttosto, a pensare al campionato junior, perché anche quello può sfuggirgli tra poco, alla prossima regata.» I giorni seguenti, Ario non ebbe più occasione di parlare di queste cose col canottiere magro. Però notò che egli aveva smesso, subito dopo quel colloquio, di accanirsi con la proposta di cronometrare Eneo. Una mattina, mentre armava un cutter, Ario scorse Lidia sul ballatoio alto della Virtus. Poggiata con le reni alla balaustra, ci si puntellava anche con le braccia, volgeva la schiena al mare. Indossava il vestito azzurro chiaro e aveva le gambe nude e le scarpette bianche. Dinanzi le stava Eneo, ritto in piedi in mutandine da bagno. E Ario lo distinse soltanto in un secondo momento, perché glielo nascondeva l'ombra della cimasa. «Soli lassù? Ma perché?» si domandava Ario. «Sono andati lì!» Si parlavano in fretta, seri. E Lidia ogni tanto sporgeva il capo a sbirciare il ballatoio di sotto o la scaletta. Ario ebbe una fitta, lunga, e nel chinarsi per stendere i pezzi del pagliolo gli parve di sentirsi deboli le gambe. «Purché non riprendano», si disse, e guardò un'ultima volta là in alto, prima di raggiungere il padrone del cutter che lo chiamava a prua. Desiderava in quel momento, con impeto quasi disperato, di mettersi in calzoni lunghi, presto, al più presto, e decise di comprarseli lui stesso, magari prima della rivoltella. Inutile sperare che gliele acquistasse sua madre. Dal cassetto di lei le carte da 50 erano tutte scomparse, come se l'avesse fatto quella settimana chissà quale spesa. Usciva di meno quei giorni, guardava continuamente la Virtus ed era di nuovo nervosa, con gli occhi torbidi. «Senti», si affrettò a dire a Berto non appena si incontrarono soli, «non è mica vero che Eneo riuscirà a partecipare alle Olimpiadi.» E gli fece, come fosse sua, l'obiezione del canottiere. Berto tacque qualche istante. Pareva scosso. «Ti sbagli», rispose poi. «A Napoli, 20 giorni fa, è stato disputato il campionato di quest'anno. Ora siamo in settembre. Tra poco più di 3 mesi comincia l'anno nuovo. E con l'anno nuovo si può disputare, anche subito, se la federazione lo vuole, il prossimo campionato. Le Olimpiadi avranno inizio appena in agosto di quest'altr'anno. Da gennaio ad agosto sono 7 mesi. È in questo periodo che si disputerà il campionato. Anzi, se vuoi saperlo meglio, è quasi certo che le regate si correranno in luglio. Dovevano aver luogo in luglio anche quest'anno, ma sono state rimandate, non ricordo perché. Vedi che va tutto bene? In luglio il campionato, in agosto le Olimpiadi.» Ario non rispose. Gli pareva di nuovo che avesse ragione Berto. Ma ecco che avvenne, proprio quella settimana, un fatto nuovo. Berto, una sera, si precipitò sul pontone di Ario agitando un foglietto giallo. «Un telegramma da Genova! Ascolta!» «Incaricato parteciparvi con piacimento autorità, presenti regate, per superba affermazione, aggiungo fervi di voti augurali sportivi italiani. Presidente Confederazione.» Ario guardava Berto senza parole. «Non capisci!» gridò Berto. «Ma è Eneo! Eneo! Deve essere andato a Genova senza che nessuno lo sappia e ha corso e si è imposto sbalordendo tutti. Ho telefonato ora al senatore che mi ha detto di aprire il telegramma e di leggerglielo. E anche lui, che sa tutto, dice che è Eneo». A Dario girava il capo. Non capiva più nulla. Come mai stava per obiettare se Eneo contava di correre appena il prossimo anno, poco prima delle Olimpiadi, se intendeva addormentare gli avversari e non voleva si sapesse che lui fa già un tempo migliore di quello del campione attuale, ma non arrivò a dire nulla. Di corsa, come era venuto, Berto scomparve. Tornò sulla Virtus a dare la notizia a tutti. Ovunque vedeva gente e urlava a squarciagola verso le iole che a quell'ora rientravano. La zattera da Prodo si andava affollando. Canottieri, borghesi, pescatori e persino soldati e ragazze. E Berto mostrava a tutti il telegramma. Poi corse di nuovo a telefonare. Erano giunti da poco il segretario e alcuni soci quando venne recapitato un secondo telegramma. Leggendolo, il segretario si fece serio. Infine portò le mani agli occhiali, aggiustandosi le stanghette dietro gli orecchi. «Temo», disse, «che si tratti di uno sbaglio. Eneo, ad ogni modo, non c'entra». E lesse: «Armo 2 campione nazionale, rappresenterà Italia regate preolimpioniche Amsterdam». Di che Armo a 2 può trattarsi? Non abbiamo mandato a Genova nessun Armo. È un equivoco, dunque. E messi insieme i 2 foglietti, li piegò accuratamente una volta, 2 volte e se li mise in tasca, nel silenzio di tutti. «Ma», osò uno, «può darsi che ci sia soltanto un errore di indirizzo? Questo telegramma doveva andare a un'altra società, cui appartiene appunto l'Armo A2, e a noi doveva venire il telegramma, che sarà finito invece chissà dove, con l'annuncio della vittoria di Eneo». «Già», fecero eco molti, e tutto il gruppo si rianimò. «Non è possibile che una vittoria non ci sia. Se sui telegrammi, e ce ne sono 2, sta scritto Virtus, vuol dire che qualcosa da annunciarci ce l'avevano». «No», tornò a deluderli il segretario. «Credo che lo sbaglio sia proprio qui, nell'indirizzo. Deve trattarsi della Virtus di Zara, che ha mandato a Genova un Armo A2. Nessuno obiettò più. In fondo si alzò una voce d'uomo anziano: «Se si vuol proprio essere sicuri, basta telefonare alla società dei rimorchiatori per sapere dov'è Sigon. C'è qui». «Ma no!» si ridestò con impeto la voce di Berto. «Eneo non c'è! È via già da 2 giorni! È per questo che si pensava!» Le speranze si riaccesero e il segretario tornò a telefonare. «Niente», rispose, prima ancora di deporre il ricevitore, al gruppo che gli si accalcava intorno. «Eneo è da ieri a Monfalcone, rimorchia una gru». A poco, quasi alla chetichella, la piccola folla si diradò. Imbruniva e sulla canottiera restavano soltanto il segretario, che aveva telefonato a lungo al presidente e al direttore sportivo, e alcuni ragazzi, quando giunsero quasi di corsa 3 individui. «Prima di tutto, rallegramenti!» gridò uno, imboccando il ballatoio, mentre gli altri estraevano matita e taccuino. Il segretario ricominciò a spiegare. «Le Virtus erano 2. «Certo!» rispose quello, dopo aver detto che loro erano giornalisti. «Le Virtus sono 2, ma l'Armo di Zara non ha vinto, è giunto secondo. L'Armo vincitore è il vostro!» Il segretario si portò di nuovo le mani agli occhiali e fece per aggiustarseli, ma poi se li tolse addirittura, offuscò le lenti con l'alito e cominciò a pulirle col fazzoletto. «Non capisco», si udì la sua voce. «È chiaro! Mandice e Pellegrini hanno vinto la più clamorosa vittoria dell'annata!» «Mandice e Pellegrini», fece il segretario tra incredulo e deluso. «Quei 2 ragazzi!» La verità traboccò da ogni parte il giorno dopo. E i primi a saperla, in ogni particolare, furono Berto e Ario. Mandice e Pellegrini, 2 ragazzi che non toccavano neanche la 20ª, avevano vinto a Genova, con un distacco splendido, la regata delle Iole a due senza timoniere. La folla che assisteva alla competizione li aveva portati in trionfo. Mandice Pellegrini. I nomi di quei due ragazzi, che pochi conoscevano alla Virtus, apparvero su tutti i giornali e le pagine sportive dedicavano ai due campioni intere colonne. Ma il più interessante era che essi avevano corso all'insaputa della direzione, che non aveva voluto affidare il prestigio della società a due principianti. E non si capiva in che modo fossero riusciti a farsi iscrivere ufficialmente alla regata e come si fossero procurati una Iole. Famosi nel giro di due giorni, essi partivano ora per Amsterdam a spese della federazione. Quel mattino Ario si incontrò col piccolo timoniere dal cognome Greco, che gli si piantò davanti. «Tu lo sapevi!» gridò, alzando l'indice verso di lui, e lo fissava con due occhi vivissimi, penetranti e anche ammirati. «Io? Che cosa?» «Lo sapevi! Non dire di no! Che Mandice e Pellegrini erano andati a Genova e che...» «Io? Ma cosa ti viene in mente?» rispose Ario e si mosse. Divertito, aveva sorriso. «Sì, lo sapevi!» gridò con più foga il ragazzino rincorrendolo. «Ti si vede in viso che lo sapevi!» «È per questo, io me lo sono subito ricordato, che il giorno delle regate di Napoli hai gridato in faccia ai canottieri: vedrete quello che sapremo fare noi!» Ario, allontanandosi, sorrise di nuovo e non rispose. «Difatti», pensò, «Mandice e Pellegrini vogano appena dall'altro anno e sono poco più grandi di noi. Siamo quasi della stessa età».